Sotto tiro. Storie di mafia e antimafia di Roberto Galullo. Gli strascichi e le polemiche dopo l'operazione di poche settimane fa della direzione distrettuale antimafia di Torino contro le infiltrazioni dell''ndrangheta nell'economia e nella società valdostana non finiscono mai. Del resto la Valle non era abituata a fare i conti con le mafie, ma tant'è, ormai nessuno è esente. Dobbiamo evitare ingiuste e ingiustificate generalizzazioni. Non bisogna bollare l'intera comunità calabrese della Valle con il marchio di 'ndrangheta, ha dichiarato il presidente della regione Valle d'Aosta, Augusto Rolandin, rispondendo in aula ad un'interrogazione del gruppo ALPE, che è l'acronimo di Autonomia, Libertà, Partecipazione ed Ecologia, sugli eventuali tentativi di estorsione nei confronti di imprese edili valdostane. Rolandin ha sottolineato che si tratta di fatti gravi che destano sicuramente grande preoccupazione, anche per la situazione di inusuale violenza che emerge da quanto abbiamo potuto apprendere. Fatti, ha aggiunto, che confermano che la criminalità organizzata è costantemente alla ricerca di nuovi territori in cui infiltrarsi e anche la Valle d'Aosta non è al riparo da questi tentativi. Queste rassicurazioni però non hanno tranquillizzato nessuno, quasi. La situazione è di emergenza, è uno dei principali problemi che affliggono la regione, ha infatti affermato Alberto Bertin, consigliere regionale di ALPE, illustrando l'interpellanza sulle iniziative che bisognerebbe prendere per impedire l'ingerenza della criminalità organizzata nella realizzazione delle opere pubbliche in regione. Rolandin ha ribadito che il tessuto economico valdostano non è al riparo da infiltrazioni e che compito dell'amministrazione è quello di garantire che gli appalti pubblici si svolgano regolarmente senza infiltrazioni. La partita, potete starne certi, è soltanto momentaneamente chiusa. Grazie in regia Filippo Oreggi e in studio Luca Cremonese.